Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, oggi si comincia bene, si comincia con una notizia che era nell'aria, ma che insomma, è sempre bello poter dare pressoché in tempo reale, perché comunque dà una volta di più la dimensione del nostro calcio. Insomma, è un déjà vu perché succede per la 36esima volta in carriera. Insomma, in poche parole, Zamparini ha esonerato dalla guida tecnica del Palermo Pioli ha richiamato Delio Rossi, perché poi non basta mai, insomma, no? Quando si tratta di metterla in termini divertenti, insomma, Zamparini indietro non si tira. È la terza volta che Delio Rossi siede sulla panchina del Palermo, perché la prima volta fu legittimamente scelto e mi pare che poi avesse dimostrato anche tutto il suo valore. La seconda volta fu lo scorso anno, quando fu richiamato dopo una parentesi affidata a Cosmi, e adesso c'è questo terzo sbarco su questa panchina. Allora, i numeri dicono, Franco Piantalida mi informa, che sono 36 gli allenatori che Zamparini vanta in carriera, dall'87 al Venezia sino a oggi a Palermo, e che questa è la nona volta in cui richiama l'allenatore, un allenatore esonerato. Nel caso di Delio Rossi, appunto, è addirittura un revival. Ma il martedì torna a essere dedicato al calcio internazionale, e quindi la prima cosa da fare è il bentornato al ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, buongiorno e bentornato a te soprattutto. Sì, grazie. Senti un po', io credo che stasettimana noi potremmo separare i fatti dalle opinioni, perché le opinioni poi sono quelle che ti sottoporrò e che arrivano da molti ascoltatori che hanno scritto, che hanno inviato sms, che partecipano al blog, insomma, e che hanno delle riserve sempre più forti sui campionati stranieri. Io non le condivido e poi ne discutiamo insieme. I fatti ci dicono che la città di Manchester ha segnato, mi pare domenica, tra sabato e domenica ha segnato 13 gol, no? 8 lo United, 5 il City, poi 5 li ha segnati il Barcellona ieri sera, 6 nel frattempo li ha segnati il Real Madrid fuori casa. E alcune di queste vittorie sono state ottenute contro avversari di grande prestigio, perché basterebbe pensare che sì, la vittoria per 8-2 del Manchester United sull'Arsenal può far pensare a uno squilibrio eccessivo tra queste due squadre, però l'Arsenal era reduce da 2 vittorie su 2 contro l'Udinese, e quindi a parità di quarte classificate in campionato è inquietante questa cosa. Beh, aggiungiamo che l'Arsenal, aggiungiamo un paio di considerazioni facili, ci metterei anche il Bayern di Monaco, che ha cominciato una marcia abbastanza da carro armato, e aggiungiamoci che le due di Manchester hanno vinto contro 2 squadre di Londra, e peraltro non tra le peggiori, anche se non era il Chelsea, però insomma Tottenham e Arsenal sono squadre di grande tradizione. L'Arsenal è comunque la quarta, è arrivata quarta alla fine dello scorso campionato, si è molto indebolita, a onor del vero, è anche vero che ha vinto 2 partite contro l'Udinese. Ora si può sempre dire che l'Udinese è stata sfortunata, che ha avuto meno di quello che merita, è tutto giusto, però comunque le partite le ha perse, quindi se la quarta del campionato inglese becca 8 gol dalla prima e la quarta del campionato italiano fa 0-2 contro la quarta del campionato inglese, diciamo che è abbastanza preoccupante la cosa. Io non credo onestamente le proporzioni siano queste, cioè non credo che il campionato italiano debba spaventarsi per questo dato. Trovo che un'analisi a questo punto sui campionati esteri vada fatta dopo essersi stropicciati gli occhi, l'ho dato, il grande gioco, perché non sono soltanto dati numerici importanti, perché 8 gol si possono anche, cioè, di solito se fai 8 gol almeno qualcuno bello ti riesce, però devo dire che ieri ad esempio i 5 del Barcellona sono tutti pazzeschi, cioè sono tutti gol onestamente imbarazzanti per chi li subisce, ma che obbligano alla lode, perché sono talmente veloci, belli, costruiti, pensati, lavorati in verticale, cioè cose che spesso non si vedono più, con questi palloni filtranti dentro con il contagiri, e quindi dobbiamo dire che queste sono state tutte vittorie spettacolari. A questo punto c'è forse il lato B, cioè interrogarsi se questa superiorità non sia diventata un po' troppo imbarazzante, come credo che qualcuno ti abbia scritto, Gigi. Sì, per esempio, non so, leggo un'opinione appunto tra quelle arrivate. La bellezza del calcio spagnolo sarebbe dunque Saragozza Real 0-6 e Barça Villarreal 5-0. La superiorità del duopolio spagnolo sul campionato italiano non riesco proprio a vederla. Le partite del campionato spagnolo sono parecchio noiose, molto meglio il calcio inglese e quello tedesco, e va bene. Fin qui, insomma, io ripeto, non condivido, ma posso anche starci. La frase successiva però è: un occhio magari lo si potrebbe buttare anche a Paris Saint-Germain con il divino pastore. Allora al divino pastore mi sono fermato perché... Il divino pastore ci si ferma. Mi sono... pastore maiuscolo poi perché non... Certo. Insomma, comunque... Il Divino Pastore è un signor giocatore, giovane, con margini di... Però insomma, da quest'estate una domanda mi tormenta. Se Pastore vale 42 milioni di euro, come pare sia stato pagato al Paris Saint-Germain, sì. Allora qual è il prezzo di... Non so, fammi tu di... No, non c'è prezzo. Ma Dzeko, non dico Messi, perché sennò evidentemente ci tocca andare su Marte a chiedere. Sì. Ma Dzeko, se ma guarda Gigi, qualche tifoso della Juventus ieri mi ha scritto dicendo ma Dzeko la Juve non l'ha preso perché costava troppo. Credo di sì, cioè credo che questa si fosse una motivazione. Insomma, con quello che ha speso per Martinez, Matri, Toni e un paio d'altri l'avrei potuto anche prendere. Sono considerazioni postume che ci stanno e fanno parte dell'amaro in bocca che resta a molti tifosi di squadre italiane quando vedono partire i propri dirigenti lancia in resta per cercare grandi giocatori e poi accontentarsi. Non voglio offendere, ma insomma di qualche scartino, perché di fatto è questo che ha detto sì. Il mercato in questa stagione a grande livello. Ma per carità, non c'è mica da vergognarsi, mica tutti possono andare a comprarsi la Ferrari, c'è chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere, è giusto e legittimo che vada a comprarsi un'utilitaria. Però, ecco, ad esempio Edin Dzeko ha avuto un impatto non buono con la Premier League l'anno scorso, ha avuto bisogno di qualche partita, è stato aspettato, nonostante questo comunque il Manchester City ha fatto una grande campagna acquisti perché ha preso anche Agüero ed era un altro degli obiettivi non centrati da società italiane, ma non per questo gli ha detto senti tra un paio di partite se non cominci a segnare ti cacciamo, l'hanno aspettato, questo farà 25 gol sicuri, poi non sempre chi più spende ha ragione perché il Chelsea forse vedendo come sta giocando ancora Fernando Torres i suoi soldini magari li poteva spendere diversamente, posto che io spero che Torres si ripigli, ma ormai sono quasi 2 anni che è in grave difficoltà. Il Liverpool in questo invece è forse più soddisfatto perché comunque Suarez sta giocando molto bene. Detto questo, il livello delle due di Manchester, delle due del Classico, il Paris Saint-Germain credo che una volta ingranata la marcia poi farà polpette del campionato, il Bayern di Monaco lo stesso. È sinceramente imbarazzante in alcuni momenti, è imbarazzante perché ogni tanto è bello anche vedere una partita combattuta dove sono in due a giocare, però io non trovo noioso il fatto, cioè chi ha visto Barcellona-Villarreal ieri sera non può essersi annoiato, cioè può sempre dire che il Villarreal sembravano gli Washington Generals nelle partite degli Harlem Globetrotters e va bene. Sì, però poi però gli Harlem sono divertenti, cioè la gente gli Harlem li vede. E le cose che hanno fatto quelli del Barcellona sono meravigliose perché anche quando non hanno segnato hanno comunque costruito delle cose fantastiche. Ripeto, la partita perfetta si diceva qualche anno fa fosse quella che sarebbe finita 0-0 perché voleva dire che nessuno aveva sbagliato. Magari i tempi sono un po' cambiati, sì. Anche le esigenze di Palato si sono modificate. Io ripeto, se non avete visto i 5 gol del Barcellona, cercateli e non ci si può annoiare davanti a una partita del genere. Fermo restando che insomma, se finiscono tutte 5-6-0, prima o poi ci si annoierà, questo è possibile. Sì, mi sembra un po' prestino annoiarsi per agosto, ad agosto come soprattutto davanti a qualcosa di esteticamente sbalorditivo, anche tatticamente sbalorditivo, perché sì. Se poi adesso dopo il traffico vogliamo provare a soffermarci un istante solo e poi magari parliamo anche di come sta giocando il nuovo United, quello rinfrescato per la milionesima volta da Ferguson, ma insomma se vogliamo provare un attimo a guardare la formazione del Barcellona di ieri sera scopriamo qualcosa di... Scopriamo che sono scomparsi i difensori centrali di ruolo, perché di inedito, hanno giocato a tre in difesa e se giocano a tre in difesa con Mascherano e Busquets, che sono comunque due centrocampisti, certo, capaci anche di fare i centrali. E questo è una bruttissima notizia per tutti gli altri. Io credo che con Real Madrid loro sarebbero tornati alla difesa a 4, e soprattutto uno come Piqué a Cristiano Ronaldo glielo devi mettere davanti, però nelle partite contro tutte le altre loro possono serenamente giocare a 3 con questi, il che significa che gli altri la palla non la vedranno mai. Con un solo difensore di ruolo che è Abidal, e contro un attacco, che vanta comunque Pepiniello Rossi e Nilmar, no? che sono tutt'altro che due giocatori. Ma non gli arrivava mai la palla, Gigi, perché se tu metti due centrocampisti a fare i due terzi della difesa, o fai degli errori clamorosi, oppure la palla ce l'hai sempre tu. Poi qualcuno dice che tutto questo è noioso. Insomma, io sinceramente preferisco annoiarmi con questo genere di partite che con Fiorentina-Lazio, adesso per dirne due, no? piuttosto che con Genoa, poi ciascuno metta i nomi che preferisce. Ma insomma, trovo che sia già un tipo di divertimento più di noia vagamente più qualificata. Facciamo questo intervallo per sentire come va sulle strade. Mi sembra di capire che siamo in larga maggioranza concordi che non da oggi in realtà, che il campionato tedesco, la Bundesliga, è tutto sommato il campionato più divertente d'Europa, perché è il più combattuto, il più equilibrato, è quello in cui sì, una volta su tre vince il Bayern, come Fabio ci stava dicendo, ci stava proiettando su quest'anno con molte probabilità, però c'è una grande alternanza e c'è una grande varietà, cioè l'equilibrio produce divertimento e in certa misura anche spettacolo. E dopodiché, se ci sono degli squadroni altrove che giocano calcio a memoria così divertente, di qualità eccelsa, insomma, ripeto, annoiarsi diventa discutibile. Per esempio, Fabio, come ha fatto lo United quest'anno a ripartire con una squadra che è largamente rinnovata anche per via di infortuni? Un po' è stato costretto. Poi è stato costretto perché ecco, una caratteristica comune di tutte queste squadre è che siedono su montagne di debiti, nel senso che molte di queste squadre hanno speso esageratamente rispetto a quello che poi sono gli introiti, e questo sarà un problema, questo diventerà un problema. Comunque il Manchester United ha iniziato da un lato una certa cura dimagrante, iniziata qualche anno fa quando ha ceduto Cristiano Ronaldo, e soprattutto ha avuto coraggio, una volta che sono venuti a ritirarsi i vecchi draghi, prima Neville, poi Scholes, poi arriverà anche il turno di Giggs, ma comunque insomma quelli che hanno fatto il Manchester United più grande, Ferguson ha avuto, ovviamente aiutato dalla sua autorevolezza, dal fatto che comunque può permettersi anche di rischiare, può decidere senza venire impallinato dopo due partite dalla stampa. È anche vero che poi il Manchester United, anche nelle stagioni non buonissime, non scende mai sotto il secondo o terzo posto. Ecco, quando non vince la Premier arriva secondo, o al massimo, se proprio gli va storta, arriva terzo. E ha trovato sia in campagna acquisti, ad esempio ha fatto un buon investimento, ha speso 17 milioni di sterline per Ashley Young, ma comunque ha valorizzato due o tre giocatori dal proprio vivaio che si sono dimostrati immediatamente capaci di giocare. Poi è chiaro che entrare in un sistema che già funziona aiuta, soprattutto entrare in un sistema. Ecco, io quello che ogni tanto penso è che in molte squadre italiane sia complesso, difficile per i giovani entrare subito, proprio perché alle nostre squadre, o quantomeno a quelle di vertice, forse tranne il Milan, manca un complesso, cioè manca un'idea che venga portata avanti per un certo numero di anni, quindi ogni volta bisogna ricominciare da capo, quindi arriva un nuovo allenatore e cambia tutto, oppure arriva un nuovo sistema di gioco e cambia tutto, e per il giovane è un po' più complicato. A Barcellona e a Manchester, in questo momento sponda United, è più facile inserire i giovani, prova ne sia che a sponda Manchester City, che invece ha un sistema di gioco che non è ancora codificato, devono spendere molti soldi per portare giocatori che siano già abbastanza finiti, e quindi non gli viene più difficile valorizzare giocatori dal vivaio. Tutto molto, molto interessante. Poi qualcuno scrive Roberto Belluno, ecco, probabilmente c'entra il problema. Credo che l'unica noia, scrive questo ascoltatore, sia sapere già prima chi vince. E, in Italia la mediocrità rende tutto più incerto e più frizzante. E questo è abbastanza vero. Sì, cioè ci vorrebbe l'equilibrio tedesco, mettiamola così, con la qualità spagnola o inglese di vertice, ma insomma tutto non si può avere. Io credo che al di là del calcio marziano che gioca il Barcellona, al di là di come sta giocando bene quest'anno il Real Madrid, a parer mio perlomeno, perché è vero che insomma, c'è un grande squilibrio rispetto a Sarra, però quando tu fai 6 gol fuori casa, come è successo domenica a Saragozza, il portiere avversario è il migliore in campo e tiri in porta altre, mi pare che oltre i 6 gol tiri in porta 12-15 volte, insomma, gli altri saranno pure mediocri e si è visto, però tu sei una grande squadra. Ma guarda, mi ricorda il paragone Federer-Nadal in questo caso, cioè il Barcellona è più leggero, è più bello, è più eccitante, se vuoi, cioè è un gioco a Roger Federer migliore, quello che davvero rende tutto più facile e fa vedere delle triangolazioni a una velocità che non è ripetibile da parte degli altri. Il Real Madrid è un po' più Nadal, cioè è un po' più costruito, le viene meno naturale, ha bisogno di essere sempre in buona condizione per sprigionare il suo gioco e diciamo prende il centro del ring e fa... E cerca di menare nel senso positivo, non voglio parlare di botte così, ma nel senso che è più un picchiatore, sì. Lo so, in passato, ecco, quando incontra il Barcellona diciamo che si veste un po' da George Foreman e cerca di menare. Non c'è dubbio, c'è qualche speranza secondo te in Inghilterra, qualcuno me lo sollecita con via SMS, che non tutto si riduca a un derby di Manchester, che pure sarebbe, non so se inedito nella storia, ma certamente sarebbe una grande novità, o invece non so, Liverpool piuttosto che Chelsea possono sperare di... Guarda, secondo me Gigi la singola partita a Liverpool e Chelsea se la possono giocare, soprattutto in casa, e sono molto curioso, no, secondo me Liverpool non è competitivo per vincere il titolo, lo è invece il Chelsea, anche se è una squadra abbastanza vecchia, anche se è una squadra abbastanza compassata, anche se è una squadra che ha perso un po' di certezze, perché così non è più così granitica in difesa, adesso perde Drogba per qualche settimana, Torres è alle prese con tutta una serie di problemi, forse anche quasi solo psicologici, che comunque non lo sbloccano e tutto il resto. Vediamo il lavoro di Villas-Boas e credo che il Chelsea sia l'unica speranza di togliere a Manchester il titolo, ma altrimenti sarà una cavalcata, credo, impietosa per tutte le altre. Insomma, c'è troppa qualità, onestamente il City ne ha anche di più in attacco, perché sì. Ha un attacco che è spaventoso. Basterebbe mettere in campo le riserve per avere comunque una squadra da titolo, ma insomma, quando giocano tutti quelli titolari o comunque quelli che stanno giocando adesso fanno veramente paura e ti buttano al tappeto in 2 round. Manchester United invece ha un gioco diverso, un gioco meno muscolare, è un gioco magari più simile a quello del Barcellona, un gioco più leggero. Insomma, credo che la stagione di Rooney vada sempre comunque tenuta d'occhio, perché non solo perché si è fatto ricrescere i capelli col trapianto, ma perché ha ricominciato a un livello secondo me fantastico. Credo che Rooney vada sempre visto, perché è uno dei pochi giocatori totali, cioè un giocatore che va nella tua area a saltare, va a contrastare, certo, sulla mediana, prende la palla, fa 40 metri palla al piede, è veramente un fenomeno da questo punto di vista. Speriamo tenga da un punto di vista fisico, ma cioè, se lo fa è uno dei giocatori degli ultimi 15 anni secondo me, senza dubbio. Senti, Claudio Dordi, che è un ascoltatore dal Vietnam ed è un fedelissimo tra l'altro, domanda: ma divari così vistosi tra squadre di prima fascia dei due campionati più importanti non lasciano un po' perplessi? È normale? Oppure, prospetta una spiegazione, oppure la crisi economica da un lato e il contemporaneo ingresso di pochi magnati dall'altro sta creando un sistema polarizzato con pochissimi club in grado di giocarsela alla pari in Europa? Sì, ci sono molte verità in quello che lui scrive, da un lato, però le situazioni sono veramente tutte diverse, perché il Real Madrid e il Barcellona sono due situazioni completamente diverse, intanto perché hanno una forma societaria diversa, esiste una tradizione diversa. In Inghilterra il Manchester United è di proprietà americana, il Manchester City ha avuto bisogno dello sceicco, tutti parlano di questi sceicchi, ma sarà un caso che questi non vengano a investire in Italia, che l'unico investimento che viene fatto in Italia, a capitale straniero, è comunque al 40% e ha lasciato sempre comunque adito a molti dubbi, non sospetti, intendiamoci, a molti dubbi sulla reale consistenza di questa cordata. Fermo restando che adesso, a memoria mia, un divario così grande in Spagna sì, perché comunque Barça e Real in Spagna non si sono sempre spartiti la torta, però il problema che secondo me va analizzato e va tenuto in considerazione è l'assenza delle terze forze, cioè in Spagna la crisi che periodicamente passano Siviglia, Villarreal, Valencia o tutte le squadre che ho, Atletico Madrid, in questo senso devono preoccupare, però vedi Gigi, l'Atletico Madrid perde i suoi due attaccanti, come dire, simbolo, però fa un colossale investimento e prende Radamel Falcao, che è uno che farà benissimo ed è certamente un eccellente giocatore, comunque fanno investimenti, altrove ci si è messi su posizioni difensive e si cerca di fare scambi solo con i famosi prestiti con diritto di riscatto, prestiti con obbligo di riscatto, oppure prestito secco con obbligo di pagamento dello stipendio, cioè tutta una serie di formule che sono formule non di sviluppo ma sono formule difensive. Evidentemente la tempesta è ancora in corso e più di questo non si può fare. Senti, io chiuderei con una nota statistica di Franco Piantanida, che a proposito di Premier ha calcolato quante miglia hanno volato quest'estate le singole squadre nelle loro tournée. Pensa che hanno percorso in totale 168.000 fischia miglia, quindi 271.000 chilometri, e quindi ogni squadra ha fatto una media di 20.000 chilometri di volo in estate per amichevoli esibizioni. Il Chelsea è quello che ne ha fatte di più, 30.000 chilometri andando a Bangkok, a Kuala Lumpur, a Hong Kong, a Glasgow, che già era quasi nel cortile di casa. Lo Swansea, e cioè i gallesi neopromossi, ha fatto 30 chilometri per giocare 2 chilometri per giocare due amichevoli nel contado, diciamo. È carina anche questa, no? Interessante. Qui da un lato ci si scontra, perché se si gira troppo poi la preparazione rischia di essere penalizzata, poi non sembrerebbe, vedendo le due di Manchester, però tu hai detto le destinazioni e questo è un altro anno nel quale le società italiane non sono riuscite a portarsi, non voglio dire in pari perché adesso è impossibile, ma non sono riuscite ad aprire una nuova strada, perché se vogliono competere a livello di fatturato con queste società devono andare a est, devono andare a cercarsi tifosi, a cercarsi mercati ed è così, insomma, non ci scappi più, cioè non campi più come una volta, hai bisogno di fare qualcosa di diverso, questo per fortuna o purtroppo lo decide il mercato, se è così, però questa è la strada. Grazie Fabio. Grazie a te Gigi, un abbraccio. Chiudiamo questo primo appuntamento stagionale con il calcio internazionale e con Fabio Tavelli con un'altra notazione che fa un ascoltatore che io condivido in pieno. Questo ascoltatore ricorda anni fa una serie di polemiche infinite per un Milan-Torino finito 6-0, io ricordo un 7-0 di un Roma-Catania che poi da lì in avanti ha innescato faide tribali tra le due società, soprattutto la parte catanese. Ebbene, domenica Manchester-Arsenal è finita 8-2, non si sono fermati nemmeno all'ottavo gol i giocatori dello United, e però i giocatori dell'Arsenal dopo questo 2-8 all'Old Trafford sono andati dai propri tifosi ad applaudirli, a ringraziarli del sostegno, e sono stati a loro volta applauditi. Quindi forse di tutti i discorsi che abbiamo fatto prima mancava un riferimento al brodo di coltura, no? In cui tutto questo accade e matura. E subito dopo l'intervallo ci sarà, a parte l'ennesima protezione di Zamparini, ma ci sarà qualche altro elemento aggiuntivo a questo proposito. Adesso sentiamo come vanno le borse. Vi ricordo che il presidente Palermo Zamparini ha esonerato l'allenatore Pioli un'ora fa e al suo posto ha richiamato per la terza volta sulla panchina del Palermo, Delio Rossi. Non è il primo allenatore, dunque il campionato non è ancora cominciato, come è noto, ma non è il primo allenatore saltato, il povero Pioli, perché di 3 settimane circa, forse di 1 mese se non ricordo male, era stato preceduto Zamparini da Cellino, forse il suo principale rivale, no, in questa materia storicamente. E mentre per Donadoni non ci sono dubbi che possa quest'anno tornare ad allenare in caso di richiesta, in caso di disavventura di qualche suo collega, la stessa cosa dovrebbe essere per Pioli. Però effettivamente Pioli è stato licenziato prima dell'inizio del campionato, sostanzialmente, ma formalmente no, perché il campionato in teoria era già iniziato, si sarebbe dovuto giocare. Vedremo cosa deciderà l'associazione allenatori, o se magari Ulivieri si incatenerà un'altra volta a Coverciano. Cellino, dopo, ripeto, la prudenza estiva del licenziamento a Donadoni, stamane ha scritto una lettera a Beretta, al presidente della Lega Calcio, ed è una lettera che pare valga la pena di leggere, perché rende l'idea del clima che c'è per l'appunto tra i presidenti di società. Caro Beretta, dimettiti immediatamente. Questo è il titolo della lettera inviata dal presidente del Cagliari. Beretta se ne deve andare, scrive Cellino. Tra l'altro, l'ordine del giorno dell'assemblea da lui convocata è scandaloso. L'articolo 7, quello che ha provocato lo sciopero dei calciatori, è solamente al penultimo punto. Ma quello che è stato fatto nei confronti dei giocatori è vergognoso, e io sono sceso in campo semplicemente per il bene comune. Una logica che qualche presidente che neppure voglio nominare non riesce nemmeno a capire. Fin qua il presidente del Cagliari, ripeto, a testimonianza di un clima, non dico solidario, se non altro unito, no? Da parte dei maggiorenti del nostro calcio, quelli che io personalmente chiamo capocomici, perché se i calciatori sono gli attori, o i teatranti magari in una versione un pochino meno lusinghiera, sono certamente dei capocomici per come si sono comportati e si stanno continuando a comportare i presidenti delle società di Serie A. Marco in linea da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, bentornato. Dica. È un piacere parlare con lei come sempre. Io volevo fare una considerazione. Questo slivellamento verso il basso, questo sembrerebbe quasi un campionato di sottoclub, per rimanere con i termini di Fabio Tavelli, del campionato italiano, e potrebbe essere positivo qualora si investisse molto di più nei vivai, quindi una maggiore competitività a squadre livellate verso il basso, ma un coraggio di investire in giocatori giovani ancora sconosciuti, quindi poter approfittare di questa occasione per risviluppare un vivaio che ormai è cronicamente in crisi. Cosa ne pensa? Penso di sì, penso che questa sia sarebbe una delle tante strade da battere, indubbiamente. Non è una novità, negli anni passati se ne è discusso spesso nel resto d'Europa, ma nel resto del mondo in genere i ragazzi, i giovani hanno il coraggio di lanciarli e hanno il coraggio anche di confermarli se sbagliano la prima partita, se sbagliano magari anche la seconda. Da noi questo coraggio non c'è, o comunque non c'è nella misura giusta, cioè non c'è se non altro la voglia, la forza di difenderli se non riescono a dimostrare sin dall'inizio tutte le loro qualità. Sono un tantinello distratto perché Delio Rossi non ha ancora accettato, a quanto pare, la panchina del Palermo. Perlomeno all'Ansa manca ancora una conferma ufficiale, e quindi l'esonero di Pioli da parte di Zamparini è in banca, e quindi a quota 36 Zamparini ci è arrivato. Potrebbe darsi che a quota 9, cioè richiami di allenatori già transitati da quelle parti, potrebbe darsi che quota 9 invece fosse ancora in discussione. Roberto ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini, innanzitutto sono molto felice di risentirla alla radio. Grazie. prego. Volevo parlare con lei semplicemente della scarsa qualità ormai del nostro calcio, ma non soltanto del nostro, ma in generale, nel senso che io sto vedendo ormai, ho avuto la fortuna l'altro giorno di vedere la partita del Manchester contro l'Arsenal, 28-2, e anche quella del Real Madrid, che tutti i campionati nazionali ormai hanno due, tre squadre top, ma oserei dire qualcosa di più di top rispetto alle altre, e tutte le altre che invece veramente sono di categoria differente rispetto a quella di cui stavamo parlando. Vero. Secondo lei non sono maturi i tempi per fare questa benedetta Eurolega, togliendo di mezzo Champions League, Europa League, fare veramente un campionato europeo stile NBA a tutti gli effetti, insomma. La ringrazio. Grazie a lei. Può darsi che i tempi maturino in questa direzione. Io al calcio italiano non lo auguro, perché in questo caso mi sembra che in questo momento storico non sarebbe il più indicato, no? Per sedersi a questo tavolo dei presunti vincitori. Io mi auguro invece che con l'introduzione del fair play finanziario, con l'introduzione vera, effettiva, quando ormai tra non più molto tempo accadrà, io mi auguro un riequilibrio da questo punto di vista, perché non c'è dubbio che si stia andando un pochino tanto oltre. Io credo che il sale del calcio sia che il Barcellona, il Real, lo United, magari le vincano poi anche le partite fuori casa sui campi difficili, però non le stravincano. Vincere 6-0 a Saragozza, lo dicevo prima, bombardando letteralmente il portiere avversario per 90 minuti, tra l'altro con una ferocia, con una determinazione esemplare, perché è bello che si giochi sul serio fino in fondo, come ha fatto il Real, come ha fatto lo United con l'Arsenal, però ci sarebbe un tantinello in più da mordere se dall'altra parte ci fosse un po' più di sostanza. Ci sono stati anni, parlo dei primi 80 per esempio in Spagna, in cui sì, gli scudetti alla fine andavano quasi sempre a Barça o Real, però ogni tanto c'era un'alternanza con squadre basche, per esempio ricordo un Athletic Bilbao, ricordo anche, credo, una Real Sociedad, forse un paio di lighe vinte addirittura in quell'epoca. Ma soprattutto ricordo che quando il Real Madrid o il Barcellona andavano a giocare sui campi baschi, beh, insomma, il risultato era tutt'altro che scontato, come d'altra parte accadeva da noi quando c'era la trasferta della Juventus o del Milan o dell'Inter ad Ascoli, a Cremona stessa, in certi campi di provincia, beh, insomma, non andavi a fare una passeggiata. E visto che allora, anziché alle scommesse, si giocava al totocalcio, spesso e volentieri giocavi la doppia su queste trasferte, giocavi almeno un x2. Oggi il segno X è sinceramente sprecato, da loro più, ancora più che da noi. C'è un altro torinese in linea che si chiama Tommaso, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Io volevo anch'io ricollegarmi al discorso di questo confronto internazionale per fare anche un'altra osservazione curiosa. Nei campionati, ad esempio quello spagnolo, le serie minori sono molto inferiori rispetto alle serie minori italiane. Questo è un paradosso. Se noi consideriamo la serie B spagnola come livello, diciamo, agonistico e tecnico, non è paragonabile alla nostra serie B. La serie C spagnola, non so come si chiama, terza divisione, adesso non lo so, non penso che non abbiano neanche rimborso spese, quindi, mentre invece noi abbiamo dei calciatori in queste serie che prendono degli ingaggi da oltre che da dirigente d'azienda, per intendersi. Sì. Quindi c'è questa anche curiosità, sì, no? Che il nostro sport popolare rimane anche popolare perché in tutte le sue, ha abbassato il livello anche lì, però in tutte le sue serie mantiene comunque un professionismo che da altre parti non è così scontato. Basti pensare che il Barcellona B o Real Madrid B, mettendo la Primavera in campo nella seconda divisione spagnola, fanno dei campionati discreti. Purtroppo, lo dico purtroppo per l'Italia, per i movimenti giovanili italiani, se noi mettiamo le Primavere italiane a fare il campionato di Serie B, si trovano a giocare in dei ragazzi che non hanno mai visto un campo agonistico ad alto livello e si trovano magari in grosse difficoltà contro squadre magari blasonate che... Sì, che Tommaso, io in realtà non conosco il livello delle seconde divisioni altrui, quindi non sono così abilitato a rispondere perché sono poco documentato. So una cosa però, che da noi in Italia c'è un numero esorbitante di società minori, però professionistiche, e questo è uno dei mali del calcio italiano, perché arriviamo, non so, attualmente siamo a 120, 100, 130, insomma si è perso persino il conto, molte di queste falliscono, poi vengono ripescate, poi vengono miracolate, insomma sono anni che si trascina una situazione eccessiva da questo punto di vista. Mentre nel frattempo vedo un'ultima ora in cui Delio Rossi dice: un mio ritorno a Palermo assolutamente no, ho già spiegato il perché al presidente Zamparini. E quindi io credo che a questo punto Delio Rossi for president non sia la primissima volta che lo merita, ma questa lo è certamente in maniera particolare. Quindi non tutti sono a loro disposizione. Gigi Riva adesso: sinceramente non capisco l'antipatia di Calderoli per i giocatori, pagheranno tutte le tasse che lo Stato imporrà loro. D'altra parte, se c'è un settore che in questi anni, è sempre Gigi Riva che parla, ha dato lustro all'Italia nel mondo, è stato proprio il calcio, con il mondiale vinto nel 2006, mentre per la politica è forse meglio lasciar perdere. Così ha parlato Gigi Riva rispondendo a un'iniziativa di uno statista come Calderoli. Intervallo per il traffico. Amo Delio Rossi, appena scritto un ascoltatore a proposito del rifiuto di Delio Rossi a tornare alle dipendenze di Zamparini. Andrea, chiamato dalla provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Okay. Io chiamavo più che altro per fare una precisazione a proposito di quanto ha detto prima Fabio Tavelli sulla situazione finanziaria delle squadre inglesi, in particolare del Manchester. Sì. Visto che si parlava di... il fatto che siedono su una montagna di debiti, tutto vero, per carità, però visto che si tratta di Radio 24 volevo precisare che i debiti su cui poggia il Manchester non sono dati da ammontare delle spese superiori agli introiti, visto che il Manchester registra ormai 25 anni utili per diverse decine di migliaia di euro ogni anno. I debiti sono dati dal fatto che la proprietà ha acquisito la società tramite leverage buyout, sì. Quindi la società ha dei debiti ma non ha assolutamente una situazione di bilancio negativa. Era solo una precisazione, visto che è Radio 24, mi sembrava doveroso. No, è stato gentile Andrea, grazie. D'altra parte questo è uno dei cavalli di battaglia di Marco Bellinazzo, del nostro esperto appunto di economia e finanza applicato allo sport e in generale al calcio. E al calcio in particolare. Detto questo, quando entrerà davvero in vigore il fair play, io credo che il Manchester United i suoi problemini li avrà, come li avrà il Chelsea, come li avrà il City, credo, a maggior ragione, perché comunque non si potrà più usare la disinvoltura che anche loro hanno usato in questi anni. Dopodiché la situazione patrimoniale è ben diversa rispetto ad altre. Umberto Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire per quanto riguarda la posizione di Beretta. Beretta 6 mesi fa era stato praticamente sfiduciato dalla Lega e adesso continua a parlare a proposito della Lega, sul contratto, su tutto quanto. Io non capisco come possa anche la Lega stessa proprio accettare il fatto di venire rappresentata da questa persona, che poi in più si è fatta portavoce quando si è andata a trattare con Campana, e a quel punto poi ha portato in Lega l'accordo che aveva firmato l'associazione calciatori, e poi però la Lega non l'ha rettificato. Quindi non capisco proprio la sua posizione. Non si capisce la posizione di Beretta, non si capisce nemmeno però la posizione di questi presidenti che continuano a farsi rappresentare da una persona che da 6 mesi lavora da un'altra parte, no? Che ha un incarico, ufficiale e non irrilevante in una banca. E quindi diciamo che le anomalie a questo proposito sono davvero tante. È un momento di rapporti tesi tra calcio e politica, mi pare, no? Vi ho letto prima la dura reazione di Riva alla proposta di Calderoli, che stamane ha rilanciato l'ipotesi di una tassa di solidarietà da applicare soltanto ai calciatori e di una tassa discretamente robusta. Avete sentito, ripeto, la risposta di Riva, poi qualche ascoltatore fa notare la differenza di statura, lo squilibrio di statura che c'è tra un personaggio del calibro di Gigi Riva e un personaggio del calibro di Calderoli. Lascio a voi indovinare in che direzione, no? Sia questo squilibrio, secondo i messaggi che ho davanti sul display. Però ieri era partito bene, mi pare, Buffon nell'inquadrare il problema. Un'intervista che ha, insomma, che è rimbalzata non solo in Italia per la fermezza delle posizioni. Ieri ne avevamo trasmesso una parte, adesso sentiamo quella forse complessivamente più significativa. Con tutte le problematiche, ecco, che ci sono in Italia fra riforme, mica riforme, problemi politici e compagnia bella, penso che si voglia cercare di sviare il tutto per addossare al calcio e al calciatore probabilmente delle responsabilità, penso anche troppo grandi, perché se una nazione come la nostra fa tutto questo macello e crea tutto questo interesse intorno al calcio, significa che non è una nazione che ha un futuro proprio roseo. Ecco. Però, come spesso accade, quando ci sono momenti delicati anche in politica, poi viene messo di mezzo il calcio per creare il polverone per altri 15 giorni e magari non parlare di cose molto più serie, molto più importanti, che riguardano, insomma, la società nella quale viviamo. Contemporaneamente Prandelli aveva espresso un'opinione a proposito del comportamento dei giocatori, cioè secondo lui non sono certamente stati i giocatori a causare questa giornata di blackout, impropriamente chiamata sciopero quasi da tutti, però è anche vero che un bel gesto l'avrebbero dovuto fare. Sentiamo Prandelli. Non penso che venga usato il calcio per nascondere qualche problema. Io speravo fino all'ultimo che si potesse comunque scendere in campo. È stato un autogol da parte di tutti. Edoardo ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, dottore, buongiorno, mi scusi. Non avevo finito la dichiarazione del ministro, però sentivo lei che parlava appunto di questa situazione. Dobbiamo richiamarla, Edoardo, perché c'è qualche problema di collegamento. Io la dichiarazione del ministro Calderoli sinceramente sotto gli occhi non ce l'ho, posso anche procurarmela. Ho visto le reazioni a questa dichiarazione da parte di alcuni esponenti del mondo del calcio. Le ho letto quella di Gigi Riva, qua per esempio c'è la replica di Pirlo, regista della nazionale della Juventus. All'annuncio di Roberto Calderoli che un emendamento della Lega Nord prevede di lasciare in manovra la tassa di solidarietà solamente per i calciatori, quindi insomma la notizia c'è, poi non la conosco nei particolari. Abbiamo ripristinato il collegamento con Edoardo? Non ancora, allora andiamo a Varese da Gilberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare due considerazioni sulle squadre italiane, se era possibile, perché a questo punto mi sembra interessante la posizione dell'Inter, dove sta dichiaratamente facendo una campagna acquisti basata sui giovani, basata su giocatori più alla portata, no? Vediamo le cessioni di Eto'o, vedremo come finirà il caso Sneijder, vediamo altri personaggi importanti. Ecco, mi sembrava interessante la sua posizione, perché se è vero quel che è vero, che fino adesso è stato detto che si ha il coraggio negli altri campionati di far giocare giovani e non tirarli fuori alla seconda partita, rivaluterei la campagna acquisti dell'Inter. Detto questo, poi è evidente che il fair play finanziario dovrà pur dirci qualcosa, premesso che non ci ho ancora capito granché, però perché vediamo squadre tipo il Manchester che fa campagne faraoniche, il City con i soldi dei boiati loro, dei loro emiri eccetera, però prima o poi bisognerebbe anche arrivare al dunque, no, di questo fair play finanziario. Sì, il problema è che l'Inter ci è arrivata per l'appunto al dunque e quindi è una questione di volpe e uva, cioè diciamo che le scelte dei giovani adesso, dei giovani entro certi limiti, perché poi Forlan credo che l'età della barba ce l'abbia già, di sbarbarsi, no? A 32, è una necessità più che una virtù. Anzi, visto che Forlan è appena sbarcato, o comunque non è sbarcato da molto a Milano, potremmo sentire un frammento delle sue prime parole da interista. Sono molto contento per stare qui, per giocare una bella squadra come l'Inter, una squadra molto importante con grandi giocatori e agradecido per il presidente, i dirigenti, trattare di giocare bene e fare lo mejor para la squadra. Lo mejor para la squadra. È tornato in linea Edoardo da Roma, buongiorno. No, stavo dicendo che ancora una volta il ministro ha perso un'occasione per riflettere prima di parlare, ma a questo siamo abituati. Devo dire che ha fatto un'ennesima figuraccia, addirittura cosa con il mondo del calcio, per cui c'è questo diciamo l'idea che i calciatori siano così persone che sappiano soltanto dare qualche pallonata. Invece sia Buffone, vabbè, Gigi Riva, entrambi insomma, personaggi di grande devoto anche dal punto di vista umano, hanno dato una lezione a chi dovrebbe invece essere un esempio per i cittadini. Purtroppo ecco, questo dovrebbe far riflettere e ritengo che i calciatori, io ho questa idea, con questo sciopero, con questa azione che hanno fatto, siamo stati gli unici in Italia che hanno abbiamo dimostrato rispetto a tutte le altre categorie che sono state prese di mira da questa manovra che fino a due giorni prima sembrava fosse inutile, almeno da quello che il Premier aveva detto in Parlamento, quindi di fronte ai cittadini, ai rappresentanti del popolo, dei cittadini, ebbene sono stati gli unici che hanno dimostrato di scendere in piazza, ecco, non scendendo in piazza, non scendendo in campo. Sì. Gli altri invece subiscono e questa cosa... In realtà, la consiglio come una lezione rispetto agli altri, rispetto alle altre categorie. Sì, in realtà Edoardo non è andata proprio così, perché poi abbiamo cercato di ricostruirlo già ieri e ormai mi pare sia abbastanza di dominio pubblico, forse l'unico non al corrente di come sono andate le cose davvero è proprio il ministro Calderoli, cioè che in realtà i calciatori hanno subito una decisione che è stata presa dai loro datori di lavoro e che però è stata fatta passare invece come appunto una decisione loro, per cui si è chiamato sciopero, si è mistificato questo accadimento definendolo sciopero quando semmai trattavasi del contrario. Detto questo, lei ha parlato di casta, esiste come anche una casta di calciatori ed è un fenomeno che insomma, voglio dire, suscita secondo me poi alla fine di tutto, non in questa circostanza specifica ma in generale, una simpatia relativa. Certo, se proprio ce la puntano qua alla nuca e ci chiedono in questo momento, mi chiedono perlomeno personalmente di scegliere tra la casta dei calciatori e la casta dei politici, beh insomma so ancora dove battere la capoccia. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, grazie a Franco Piattanide in redazione e buon pomeriggio a tutti.